Un proverbio cinese qualifica le azioni di certi stupidi dicendo che sollevano una pietra per lasciarsela cadere sui piedi. I reazionari di ogni paese rassomigliano appunto a questi stupidi. Tutte le loro persecuzioni contro il popolo rivoluzionario non possono alla fine che spingere quest'ultimo ad estendere e a intensificare la rivoluzione. Le molteplici repressioni messe in atto dallo zar e da Chiang Kai-shek non hanno avuto forse una funzione di stimolo per le grandi rivoluzioni russa e cinese? Io credo che la situazione internazionale sia giunta a una nuova svolta. Ci sono oggi nel mondo due venti, il vento dell'est e il vento dell'ovest. Secondo un proverbio cinese, o il vento dell'est vince il vento dell'ovest, o il vento dell'ovest vince il vento dell'est. Secondo me, la caratteristica della situazione attuale è che il vento dell'est ha il sopravvento sul vento dell'ovest, il che significa che le forze socialiste hanno acquistato una superiorità schiacciante sulle forze dell'imperialismo. Da che cosa è costituita una vera barriera insuperabile? Dalle masse, da milioni e milioni di uomini che con tutto il cuore e tutti i pensieri sostengono la rivoluzione. Questa è una vera barriera insuperabile che nessuna forza potrà mai abbattere. La controrivoluzione non ci abbatterà, saremo noi ad abbatterla. Quando avremo raggruppato milioni e milioni di uomini attorno al governo rivoluzionario e avremo dato nuovo impulso alla nostra guerra rivoluzionaria, noi sapremo distruggere completamente qualsiasi controrivoluzione e sapremo liberare tutta la Cina. Senza esercito popolare, il popolo non avrebbe nulla. Questo esercito è forte perché tutti gli uomini che lo compongono ubbidiscono a una disciplina cosciente. Essi si sono uniti e lottano non per gli interessi di una minoranza o di una cricca ristretta, ma nell'interesse di larghe masse popolari, nell'interesse di tutta la nazione. Stringere compatte le proprie file attorno alle masse popolari cinesi, servire con abnegazione il popolo cinese, questa è l'unica aspirazione di questo esercito. Guardatevi dalla presunzione. Per tutti i dirigenti questa è una questione di principio e una condizione importante per mantenere l'unità. Anche coloro che non hanno commesso errori gravi ed hanno ottenuto notevoli successi nel loro lavoro non debbono essere presuntuosi. Le masse popolari sono dotate di una potenza creativa illimitata. Sono capaci di organizzarsi e di dirigere i loro sforzi verso tutti i settori e tutte le branche nelle quali esse possono dispiegare la loro energia. Possono impegnarsi nei compiti della produzione, in larghezza e in profondità, e creare un numero crescente di opere per il proprio benessere. In guerra, le armi sono un fattore importante, ma non decisivo. Il fattore decisivo è l'uomo, non il materiale. Il rapporto delle forze non vede impegnate soltanto la potenza militare ed economica, ma anche la forza e il morale dell'uomo. I comunisti, quando svolgono la loro attività tra i lavoratori, debbono impiegare i metodi democratici di persuasione e di educazione. È assolutamente vietato ricorrere all'autoritarismo o alla costrizione. Il Partito Comunista Cinese osserva fedelmente questo principio marxista-leninista. Purché non sia un elemento ostile e non lanci attacchi con cattive intenzioni, ciascuno può dare il suo parere, anche se errato. E i dirigenti a tutti i livelli hanno il dovere di ascoltarlo. Devono essere applicati due principi. Primo, non tacere nulla di ciò che sai e riferisci tutto ciò che devi dire. Secondo, nessuno è colpevole di aver parlato, colui che ascolta deve trarne gli avvertimenti. È impossibile fare osservare il primo principio senza ammettere concretamente e non formalmente che nessuno è colpevole di avere parlato. La nostra parola d'ordine nell'istruzione delle truppe è: gli ufficiali istruiscono i soldati istruiscono gli ufficiali e i soldati si istruiscono a vicenda. I soldati hanno una grande esperienza pratica di battaglie. Gli ufficiali devono imparare da loro e la loro capacità aumenterà nella misura in cui avranno assimilato l'altrui esperienza. Tutti dobbiamo morire un giorno, ma non tutte le morti hanno lo stesso significato. Un antico scrittore cinese, Sima Qian, diceva: «Tutti gli uomini muoiono, ma la morte di uno pesa più del Monte Tai, e la morte di un altro è più leggera di una piuma. La morte di chi combatte in difesa del popolo pesa più del Monte Tai. La morte di un mercenario fascista, la morte in difesa degli sfruttatori e degli oppressori del popolo è più leggera di una piuma». Guardiamoci dal nutrire un giorno il benché minimo orgoglio ispirato dallo sciovinismo da grande potenza e dal diventare un giorno presuntuosi per il nostro trionfo nella rivoluzione e per alcuni successi ottenuti nel campo della edificazione. Grande o piccola, ogni nazione ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Il nuovo cresce in mezzo a difficoltà e a vicissitudini. Sarebbe pure illusione credere che sulla via del socialismo si possano evitare le difficoltà e le tortuosità, che non si debba fare il massimo sforzo, che basti lasciarsi spingere dal vento perché il successo ci arrida facilmente. Da dove provengono le idee giuste? Cadono forse dal cielo? No. Sono innate nella nostra mente? No. Le idee giuste non possono derivare che dalla prassi sociale, dalla lotta per la produzione, dalla lotta di classe e dalle esperienze scientifiche. Non possono che derivare da queste tre forme di prassi. La conoscenza ha inizio dalla pratica e le conoscenze teoriche che si raggiungono attraverso la pratica devono tornare alla pratica. La funzione attiva della conoscenza non si manifesta soltanto nel salto attivo dalla conoscenza sensibile a quella razionale, ma cosa ancora più importante, deve anche manifestarsi nel salto dalla conoscenza razionale alla pratica rivoluzionaria.